Penso che sia stato soltanto per un lapsus calmi degli organizzatori di questa tornata meridiana, che hanno aggiunto al problema edizioni di fonti il problema uso delle fonti. È chiaro che l'uso delle fonti è un problema che investe la storia in generale, e se è difficile di parlare del problema delle edizioni di fonti in un quarto d'ora, parlare dell'uso delle fonti sarebbe veramente al di sopra di ogni capacità umana. C'è un riferimento alle nuove tecnologie. Questo riferimento alle nuove tecnologie mi trova, mi mette in una serie di difficoltà. Perché ho da una parte da denunciare un ritardo doloroso da parte dell'istituto aggressivo, e dall'altra invece questo istituto, come dirò tra poco, si è imbarcato in un progetto che, se non concerne direttamente l'edizione delle fonti, concerne però le fonti medievali, e quindi mi rifarò del deficit che devo denunciare per il primo punto parlando di questo secondo aspetto. E che qui in sala presente Claudio Leonardi, che poi spero avrà la compiacenza di intervenire anche lui portando su questo progetto che lo vede coinvolto insieme con me e con Ovidio Capitani, di portare la sua parola. Dicevo il ritardo in cui siamo, il ritardo in cui siamo per l'adozione di nuove tecnologie ha un riflesso in una specie di amore, forse irrazionale, per la monotaia. Prima di rinunciare a usare la monotaia per stampare le nostre fonti, penso che dovrà passare ancora del tempo. In Italia la monotaia si è rifugiata negli Appennini, o in zone vicine agli Appennini. Ci sono tipografie che coraggiosamente stampano ancora con monotype, e di queste noi ci serviamo per le nostre edizioni di fondo, quelle perlomeno del mio istituto. Il progetto invece in cui che abbiamo varato e che ci metterà in qualche modo all'avanguardia nell'adozione dell'informatica nel campo delle discipline umanistiche è il progetto Medioevo Europa, con il quale intendiamo fare una banca dati presso il Centro Italiano di Studi sul Banco Medioevo di Spoleto, in cui saranno riversati tutti i materiali del repertorio di storia medievale, sia pure con qualche semplificazione della struttura del repertorio, che è molto complessa, e dove contemporaneamente saranno anche immessi i dati della puntualissima bibliografia annuale sulle fonti del Medioevo latino, a cui presiede sugli autori dei testi del Medioevo latino, a cui presiede Claudio Leonardi. Entrambe le iniziative, e direi ancora più quella del repertorio, sono iniziative che si valgono di una grandissima collaborazione europea. È un miracolo che il repertorio abbia potuto tenere in piedi una struttura di comitati nazionali negli anni passati. Io cito sempre, ad esempio, il fatto che in un'iniziativa in cui era presente l'Unione Sovietica c'era un solo comitato tedesco, e i sovietici non hanno mai protestato. C'è una compresenza pacifica di fonti arabe e di fonti ebraiche, e quindi da questo lato abbiamo anticipato, questo non è merito mio ma del mio predecessore, perché Fratello Morgan abbiamo anticipato questa Europa più larga, l'Europa a 6, l'Europa dall'Atlantico agli Urali, che è nelle ulteriori prospettive e attese di tutti. Naturalmente questo repertorio riguarda non appunto un'edizione di fondi, dati circa l'edizione di fondi. In particolare noi curiamo moltissimo la rubrica Ediciones, dove accanto alle edizioni di critiche moderne abbiamo le edizioni passate, con indicazioni però quando è possibile dei manoscritti sulla base delle quali, sull'utilizzazione dei quali queste edizioni sono state fondate, il che probabilmente consente anche di ripescare edizioni dei secoli passati quando non si possa avere la prospettiva di un'edizione critica secondo le moderne esigenze in tempi brevi. Non entro nei particolari di questo progetto dell'Europa, a cui abbiamo scelto come sede Spoleto. Spoleto avrà anche una parte attiva, oltre che di recensione dei dati, di quanto tutto il materiale delle settimane di studio di Spoleto e anche materiale di altre pubblicazioni di Spoleto sarà riversato in questo stesso unico del Mario. La difficoltà nasce dall'integrazione tra Medioevo latino, che tratta soltanto fonti latine, però anche inedite, e invece il nostro repertorio, che prende in considerazione voci anche in lingua volgare, in lingua germanica, in lingua slava, in lingua ebraica e arabe, però soltanto inedite, ma ovviamente è un grande progetto del quale crediamo fermamente e per il quale siamo riusciti a ottenere miracolosamente in questi tempi un adeguato finanziamento. Ma questo, diciamo, riguarda più l'utilizzazione delle nuove tecnologie di quanto non riguarda il problema delle fonti. Il problema delle fonti, visto nell'ottica necessariamente limitata, è quella del mio istituto, si presenta prevalentemente in questi termini. È un problema di editori. Dove trovare gli editori? Perché sempre più viene meno quel tipo di storico del Medioevo, di studioso di storia medievale, che poteva, in caso di necessità, farsi anche editore delle fonti su cui lavorava prevalentemente. Oggi la rivalicazione tra la figura dello studioso di storia medievale e la figura di editore di fonti medievali si sta facendo sempre più forte, direi che con passare gli anni, con mutare delle generazioni, questa differenziazione si fa sempre più forte. Ora, il mio istituto è nato come istituto storico, lo dicevo stamattina, accennando anche al particolare contesto politico in cui questo istituto è stato creato. È un istituto che è stato retto da storici. Io, quando ho potuto, nella mia gestione, avere un posto libero nel consiglio direttivo, ci sono soltanto 4 membri del consiglio direttivo, e ho subito pensato a portare Claudio Leonardi, perché mi sembrava assurdo che fossero esclusivamente degli storici a gestire un istituto che invece, ripeto, ha questa responsabilità principale di pubblicare delle fonti. E intendo nel futuro, attraverso una riforma che auspico, rendere sempre più presenti questi colleghi specialisti di discipline che in Italia hanno avuto uno sviluppo straordinario. Siamo anche qui in ritardo sulla scienza storica filologica tedesca. La grande dinastia Traube, Lehmann, Bischoff ha preceduto in gran parte, quindi ci sono gli sviluppi italiani in questa direzione, però anche se tardi gli sviluppi italiani sono venuti sia per lo sviluppo della filologia latina medievale mitologia romana è una disciplina di più antica tradizione anche da noi, e direi soprattutto che lo sviluppo della filologia medievale umanistica è un po' una invenzione degli studi storici italiani, con tutta questa grande raffinatezza di metodi per quello che riguarda la storia della traduzione dei testi, la storia dell'esame dei manoscritti, la codicologia, direi, di questa, proprio la specificità di questa disciplina. Ecco, io credo che il problema contro il quale ci troviamo è di riservare a noi storici di professione il compito della scelta dei testi da pubblicare, però con il congegno delle nostre imprese, queste competenze delle quali noi possiamo essere a conoscenza soltanto per sentito dire. D'altra parte, se fosse qui presente, ma ci sono colleghi tedeschi che sono in grado di dare una risposta, se fosse qui presente il collega Enrico Furman, la domanda appunto che gli avrei posto è quali sono stati i rapporti del movimento Germania con questa discendenza alla quale ha fatto fino adesso riferimento, perché ho presente anch'io alcuni interventi attestati, diciamo, nelle edizioni del movimento, nelle persone che hanno nominato, ma mi domando fino a che punto c'è stata l'integrazione tra questi due campi di studio. Questo direi che è il problema principale per quale ci troviamo. Credo che comunque sia difficile, una volta assicurata, diciamo, una cogestione da parte di storici e filologi di questo campo delle edizioni, trovare un editore che possa al tempo stesso pubblicare un testo e fare un commento. E quindi la direzione nella quale si sta avviando il mio istituto è quella di affidare l'edizione a uno studioso e il commento a un altro studioso. Avendo ricevuto, diciamo, il beneplacito e ringrazio qui i colleghi Else e Esce, che mi hanno molto aiutato in questa impresa, il beneplacito del movimento Germania per poter avviare l'edizione del registro di Federico II del 1239, abbiamo pensato che l'unica possibilità era rivolgersi da una parte a un valente diplomatista che curi l'edizione e dall'altra parte a uno storico che curi il commento. È difficile trovare ormai a unire queste due competenze in una persona sola. Ci sono casi in cui, secondo me, questa stessa linea può essere seguita anche in due sedi editoriali separate. Il mio istituto ha subito in questi anni la grande umiliazione di vedere stampati altrove due cronisti volgari di grandissimo livello e rilievo, come l'Anonimo Romano e la Cronaca del Villani. Ecco, devo dire che però queste edizioni, anche se soprattutto quella degli Illani ha avuto delle critiche, ma ha un livello di sofisticazione tale che non sarei in grado di prendere posizione al riguardo, sono comunque due edizioni che costituiscono un progresso enorme su quelle precedenti, sono prive praticamente di commento, sono uscite fuori in sedi editoriali diverse da quelle del mio istituto, io adesso sto dandomi da fare per fare pubblicare presso il mio istituto dei commenti a questi autori che escono in una sede diversa. Un altro problema che si presenta per l'edizione di fonti è quella se servirsi o no della traduzione a fonte. In Italia c'è una fortunatissima collana della Fondazione Valla, che ha collaborato anche il collega Leonardi, che presenta edizioni critiche con commenti molto estesi e traduzione a fronte. Io non credo affatto che si possa continuare a sostenere che la traduzione a fronte ha un carattere di poca scientificità. Credo che se una traduzione è una traduzione ben fatta, dà la garanzia di una comprensione totale del testo che nessun commento riesce a dare. Certo, per noi italiani il problema è complicato col fatto che tradurre in italiano, dal latino, vuol dire tradurre da una lingua abbastanza universalmente nota, come ancora se si vuole il latino, a una lingua che perde terreno tutti i giorni, come l'italiano. Questa è una ragione, ma ripeto, il mio favore per le traduzioni non è tanto quello di rendere più accessibile il testo, è quanto quello di avere una interpretazione del testo in sede di traduzione. Per quello che riguarda la collaborazione internazionale, noi ce ne siamo valsi tantissimamente, basta citare il catalogo di Baron, che è stato curato da Jameson, da Henry Jameson, un grande specialista di Italia Normanna, nell'edizione di Alessandro Melesino, un altro cronista medievale, che è stata fatta da una filologa italiana. Ci siamo valsi di Daglione Clementi, allieva della Jameson per il commento storico, e su Riccobato da Ferrara, testo, come noto, è al centro di molti interessi convergenti, sta lavorando Teresa Hante nell'Università di Kent. Per quello che riguarda la portata a termine del progetto dell'edizione del codice diplomatico di Riccobato, ci siamo valsi prima dell'aiuto di Brühl e adesso dell'aiuto di Linsky. Per quello che riguarda il codice cronico Sante Sofie, abbiamo in corso a Jean-Marie Martin, che invece è uno studioso francese. La parentesi, una piccolissima parentesi che ho quasi finito, è interessante questa edizione del cronico Sante Sofie, perché verranno ripubblicati in sede di edizione del cronico Sante Sofie di Benevento molti diplomi che Zivinsky pubblica invece dal diplomatista della raccolta dei diplomi dei duchi e principi di Benevento. Quindi avremo, diciamo, una duplice edizione degli stessi testi, ma una fatta con criteri di edizione di fonti narrative, per il quale sono state Sofie, l'altra invece con i criteri di diplomatisti per quello che riguarda i diplomi. Ultimissimo problema, noi abbiamo una collana intitolata Regesta Cartarum, che è nata in collaborazione con l'allora Istituto Storico Prussiano. È una collana che ha conservato il titolo Regesta Cartarum, anche se gli ultimi titoli usciti non sono più edizioni di regesti, ma sono edizioni di documenti interi. Questo titolo lo abbiamo conservato a ragion veduta, perché da più segnali che mi giungono da parte da varie direzioni, ho l'impressione che i regesti, la pubblicazione di documenti per regesti, sia destinata a tornare di moda. E con questo direi di aver concluso, per avere tante altre cose da dire, ma il tempo non c'è.